dice questo avanti si chiama Villa Dragoni. Anche le foto sono. Che dopo io ho fatto la tracce di matrimonio, in pratica mi pare che sia andato anche quello di Sergio. La chiesa di Pagani che c'era un po' davanti alla Rosone. Adesso che oggi sono tornati giù, se andiamo sulla fossa, forse è completamente deserto, esattamente una tristezza. Comunque siete state tornate per qualche motivo, per qualche missione. Lei è tornata perché c'è stata la giornata degli alpini. Durante il mese d'agosto, se tornate per qualche motivo, sarei felice se mi scriveste, mi vengo a trovare, eh? Ci mangiamo davvero i nostri cibi doc. Ma c'è anche io cosa, invece un genere. Livello, no? C'è la piana sulla verso il Gran Sasso tutta fiorita. La piana di Navelli, dove fanno zafferano. Esatto. E sono bei posti, sono. Facili e comodi da raggiungere, ovviamente. Quando siamo arrivati ci hanno mandato a Rocca di Cambio. Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo. Che bello. Cioè, bello. La base sono andato a Rocca di Cambio. Ma come sulla... Shakespeare ha detto che c'è vita fuori dalle mogli della donna. Per vedere e ho già trovato una pizza. Io non vorrei che mi passassi qua. Ma arrivano già delle email, di tronca intercettate. Ma mia madre è la preside, per cui adesso devo andare a intervistarlo i bambini, okay. Vero? Cioè, devo andare sua madre è la preside? Sì. Ah, ok. Quindi devo entrare in questa cosa. Però ho notato che i bambini stranieri si mettono in un gruppo isolato. Ha visto? Sì. Stranieri dove si sia, qualsiasi etnia, perché c'erano i sudamericani con gli africani. Assieme? Sì. Quindi vale la pena. No, adesso gli domando a mia mamma. Se volete, è uscito nel numero 3 del 2014 in una rivista che si chiama Studi di Sociologia, un mio articolo con un docente dell'Università di Bologna che si chiama Corozzi. Per l'integrazione dei bambini stranieri a scuola è proprio una ricerca fatta la network analysis dentro le classi scolastiche. Se vi interessa ve lo posso segnalare. Va bene. Tenete presente che io credo che si possano prendere anche le tesi nella mia materia, come tutte le altre. Quindi adesso voi sarete subirete di farla. Il fascino di tutte le aree del secondo semestre. Ma io lo faccio sul depuratore. Adesso ci sono già sul depuratore. Va bene. Allora. Perché anche le merde che cosa ne dite di riprendere questo aspetto di ieri? Se volete ci possiamo tornare su, sul discorso della varianza, se no la diamo per nota. Eravamo rimasti qua un po' ieri, ci eravamo fermati qua. Sì, se siete tranquilli la lasciamo così. Se volete che ci torniamo con un esempio, ci torniamo con un esempio. Ci torniamo. A pure ci torniamo. Ci torniamo adesso un'altra volta. Adesso. Ok. Allora, io parto dall'esempio molto semplice. Perché facciamo questo esempio? Perché quando noi utilizziamo anche i software per analisi di rete, vi danno delle misure sintetiche delle distribuzioni, abbiamo la moda. Cioè la modalità che ha la maggior quantità di scelte, la media aritmetica, poi ci sono altri tipi di media, la media geometrica, eccetera, eccetera. La media però come misura sintetica può avere